Wolf Trips, i viaggi del lupo. E ci siamo con una nuova puntata di Wolf Trips. Oggi è una puntata speciale in diretta dal mercatino di Gallarate. E sono un po' con i miei compari della radio. Oggi siamo un po' in una veste un po' particolare, dai. Date con oltre i viaggi del lupo, oggi siamo in giro, fuori porta, siamo in giro, siamo in giro. Tra l'altro l'ultima puntata dell'anno, quindi ovviamente come da tradizione una puntata un po' particolare. Ci sarà una super classifica. Giusto, giusto, giusto. Direi che partiamo subito con un po' di musica, così ci scaldiamo un attimo e poi dopo vediamo di sistemarci e per bene. E ci presentiamo bene. Anche perché mi sa che qua non ci conoscono. No, infatti, infatti. Anzi, infatti. Cerchiamo di fare una bella figura e non come tutti i venerdì sera dalle 8 alle 10. Poi ovviamente ti manderò anche in giro a vedere un po' com'è il mercatino di Gallarate, mi raccomando. Perfetto, perfetto. Iniziamo subito. In illusion and reality begin to overlap and fuse. The line between them begins to disappear. Il brano di Groove Cereal con A Cold Autumn Night, giusto per iniziare con un inverno freddo. È un inverno freddo, un inverno freddo. E intanto vi vedo ancora abbastanza freddi. Eh sì, perché non è che ci sia un clima molto caldo fuori, siamo sotto il periodo natalizio. Va bene, va bene. Intanto, vabbè, che dobbiamo ancora sistemare un po' di cose tecniche. vi comunico che intanto siamo in diretta dal Mercatino e anche in diretta radiofonica. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano, che iniziamo a aumentare un pochettino il beat, il drum, giusto per scaldarci un po' in questa giornata. diretta su dal mercatino musicale. Fabio, occhio con quel microfono perché ti devo uccidere oggi. Fa tanto rumore da solo. Sì, sì, infatti, infatti. Ma io ci ho parlato col microfono, mi ho detto stai tranquillo, sei sotto Natale. No, ma lui... no. Dai, però adesso ci... vedo che ti stai un po' riprendendo. Hai l'alito pesante. Colpa del Natale. Visto che ci siamo, presentiamoci un attimo, che poi dopo presenteremo anche un po' il posto, il mercatino e tutto quanto. E diciamo anche dove venirci a trovare. Noi siamo il programma di Wolf Trips, di musica elettronica. Io sono Domenico, Fabio, l'altro Fabio qua alla regia che sta smanettando a tutto spiano. Poi abbiamo la Cri e Tony. Ciao Tony. Ti mette ansia a livello della mia altezza. No, è perché non siamo nel nostro solito studio radiofonico, quindi un po' di ansia, di angoscia. Sì, perché noi siamo Samalate e vabbè, non siamo lontani, dai, quello no. Va bene. Tu Fabio volevi dire qualcosa? No, c'è ancora tanto tempo per andare a parlare. Bene, anzi, potremmo anche parlare con qualcuno che poi passa di qua. Giusto, vediamo un po' giusto, che impressioni hanno anche. Va bene, allora noi presentiamo un po' la nostra solita musica e andiamo ad ascoltarci Cali con Sta. For today, you could be my friend just for a while. Day. Tornati insieme con il mio amico Fabio e Domenico e siamo appena passati dopo il Natale, certo. Santo Stefano e abbiamo mangiato. Si vede Fabio, si vede, si picchia, anche il volume è bello grasso, diciamo. E siamo qui al mercatino di Gallarate, se venite a fare un giro troverete magari anche i regali post natalizi, no? Certo.

Bills and Lynn, just me and my bloody pen. We go together like Joker and Harley Quinn. Even if we caged in, never see a day of light. We make the best out of change, watch me pay the price. Back against the wall, I'm cornered in my room, trying to catch a break like dope tracks on iTunes. Let's get dramatic, my brain elastic, stretched out like my arms in a straight jacket. I can't escape the rage, too much pain. My mind stayed trapped, I'm a victim to the game. Focus on that plan, but that blueprint is scripted out. Since a young one, I always chose a different route. I'm a gift and a curse, trapped in a bottle with a genie. Break through these chains, I'm a modern day Houdini. Now you see me, now you don't. I'm just trying to prove a point, cause an illusion is what you see through the whole scene. Ed eccoci qua dal mercatino. Io vedo in giro Fabio e Tony che stanno guardando. Cosa avete visto? E certo, ci stiamo preparando per i regali noi, no? Quindi io sto guardando in giro se facendo la puntata l'utile è dilettevole, no? Magari mi compro anche qualcosa. Ma sai, la famiglia te? È grande. Ma per te o da regalare? Ah, potrei regalare anche a qualche ragazza, cioè. E cosa hai trovato di bello? Ma io in questo momento sto ancora cercando, però ho trovato uno stereo che utilizzavo io nella Panda, più o meno era tipo il 2000 e il 2001, identico. Sì. E qualcuno magari lo cerca ancora, è vintage adesso. Torna di moda, no? Certo, pure io cose... torno di moda. Va bene, avete trovato altro, Tony? Cosa hai trovato? No, Tony è ancora in ricerca. Del Tony micro. Arriva. Sto cercando un altro microfono. Vabbè, comunque fa freschino, no? No, vabbè, dai, è inverno, sai, il Natale. Quest'anno però non ha nevicato. No, è vero. Ti sento un po' meno, mi sento un po' più Grinch, come l'altro Fabio vestito di verde. Ascolta, ti faccio una proposta. Attenzione, Se siamo in riesci pubblico. A vedere qualcuno, cosa sta guardando. Ah, andiamo a farci gli affari, dai, della gente. Dai, prova a chiedere, visto che sei già in giro. Dai, faccio il disturbatore della situazione. Allora. Vediamo. Allora. Dai. Dammi tempo. Allora mettiamo il prossimo pezzo, Fabio. Sì, dammi tempo di cercare in giro. Magari trovo qualche cosa per me. Intanto andiamo col prossimo pezzo. Pot C, Mick Ale J Scotch. And you majored in metal shop. Yo, you better pocket some. About to bust up some shit on y'all. Wow. Locked in my hand, put my mind on rhyme. Ale getting spilled, it's about that time. Jay sparked up, has the shit right here. Scott's on the rocks and you best get clear. Mike, Ale, Jay, Scotch. Busting up bars like a drunk Sasquatch. Mike, Ale, Jay, Scotch. Touch my bruise and I'll kick your crotch. Mike, Ale, Jay, Scotch. With your crew, wear mics and socks. Mike, L, J, Scotch. Tummy gonna puke on bitches' tops. I'm fucking classy like Maestro. A black tie affair, popping pills with the mayor. Slayer alive till I grind the nerve endings. Knocking out pops from these machines vending. Alcohol drinks, I'm baiting my bike. Get to the front fountain, spray your puke mountain. Counting on you to grin and bear it. You look good and vile, I just ate carrots. For weeks and weeks with the show to aroma. Knock out fools in the farm, Jerry Comas. Diploma and drunk as fuck on the loose. I'll take the gin and fuck the juice. You see a P&J, a R2-D2, Obi-Wan on the BYOK. Plus cloak the daggers, Spadowski philosophies remain the code. Show before told, bold snap crackle. The crew to rock your house and leave your sofa spackle. Tackle bass masters, raffle grass tractors, just to put a plug on these smug thug actors. Chapters in my journal, flush fools like a urinal. My flame for the hip hop, now that shit's eternal. Plan flesh is going sonic on the bus for Wanik. We put his socks in the hop, in the ox, in the monics. Tonic and elixirs on tap for gym mixes. This team's beer league like the 86s. The blue line with Don Lever and Kurt Ridley and Harold Snepps. And the dude, Dennis Farragut. Got your family tied up in rehab. We grab cans from your cooler beside your pool. Attend if you can't, but I'm wrapping up a bender. Michael J. Scott, I'm the one to watch. Your security concerns about your booze patch. We are all around bottles. If your eyes dot along, keeping me scoped. Don't get into your dope. No IOUs, just drop you a quote on how much my next visit might require. A light Peter Parker, your ass will get fired. Tired, see your couch is about to get dented. And then you should have seen. It's the booze I rented. Mike, L, J, Scotch. Busting up bars like a drunk Sasquatch. Mike, L, J, Scotch. Touch my booze and I'ma kick your crotch. Fabio, Tony? Cioè io ho il microfono. Ecco. No, beh, sono qua nel reparto, diciamo, ceramiche e affini. Mm. Ho già intravisto una cosa che mi può interessare. Per la casa? Sì. Tua? È un portacandela, di quelli piccoli. Ah, per le serate quelle belle. Sì, c'è una, da una parte c'è la luna, dalla parte c'è il sole. È in ferro battuto e ci può stare quello. Però? Quello. Sì, sono romantico. Carino. Sembra quasi l'asta, no? Adesso gli chiediamo il prezzo, no? Uh-huh. A quanto lo offre Tony? Fabio, tu cosa hai trovato? Ma io ho visto un vecchio macino a caffè che c'era anche il mio bisnonno. Carino, proprio vintage da tenere a casa, no? Per i vecchi ricordi. E hai trovato qualcuno? Magari di là, prova a vedere. Io vedo che c'è tanta gente che sta controllando, guardando, vedendo. Vedo. Vediamo. Che è popolato quel reparto. Fabio? No, una signora mi ha chiesto se ci sono qua le cucine. Ce la faccio da venditore. Vabbè, mi fa piacere. Non lo so. Nell'angolo di là magari. Eh sì, ti ho indicato che dall'altra parte c'è un altro. Però è più formata di me, dunque. Sì, magari piatti e robe ci sono e il resto. Comunque, chi vuole portarsi una cucina, quelle vendono, le vendiamo anche. E, beh, mi faccio parte già dello staff. Dai, Fabio? Ti senti integrato sì, nel sì. mercatino. Mi pagano a metà. Mettiamo in vendita anche Tony, se lo volete. Vabbè. Tony sotto Natale al 30% di sconto garantito, eh? Solo il 30. È garantito due anni. Solo il 30. Vabbè, iniziamo col 30, poi ci sono i saldi, tesoro. Ah, ok, ok. Allora, continuiamo col prossimo pezzo. Cos'è Rose Vale? Lo dico io, va. È Z Engineers con Rose Vale. We'll be right back.

un bel nano da giardino. Così quando non sono a casa si ricorda di me, dato che sono molto alto. Fabio. Fabio. Io ho trovato qualcuno, una ragazza che l'ho vista qui in mezzo ai libri, che stava cercando un po'. Adesso ti vediamo. Cosa stavi cercando in mezzo ai libri? Ti vedevo lì tutta assorta. E cercavo un po' di fantasy sui vampiri e ho trovato tutta la saga del Diario del Vampiro, 10 libri in uno solo. Ah, interessante. Come si chiama il libro? Il Diario del Vampiro. È anche abbastanza alto, cioè ci metterei almeno 4-5 anni a leggerlo. Sono 10 libri. E altro hai trovato che ti interessava, qualcosa? Sì, anche c'era la saga di Twilight. Insomma, c'è tanta roba. Però c'è grande scelta, mettiamola così. Vabbè. Infatti, quindi venite a farvi un giro nel reparto libri se vi interessano, che c'è molta scelta. Molta scelta. Ma questo è un regalo post Natale. Sì, dai, un regalino post Natale. Ci sta sempre, dai. Bisogna un autoregalo. Sì, per poi me. Per la cultura sono sempre soldi spesi bene. E volevo chiedere anche alla mamma, giusto? È la mamma? Sì. Lei ha trovato qualcosa di interessante? Per me è un piacere vedere lei che si perde e trova qualcosa, quindi è la cosa più bella. Fantastico, fantastico. Ridiamo la linea al nostro Domenico. Al nostro Domenico, riesce a raggiungerlo. Intanto io ringrazio queste due donzelle. Grazie mille. Niente, grazie a voi. E adesso Domenico ci dirà che cosa ci andiamo ad ascoltare adesso, eh? Ah, vuoi che lo dico io? Gold Grain, Bronze Whale, qualcosa whale. Feeling alright and it's not a slight grind. Ain't answer the phone. All these struggles that make us feel hope. We don't sleep till we eat, that's a goal. And we drink till we even, yeah, we staying up. We staying up. Yeah, we staying up. Yeah, we drink till we even and we staying up. Yeah, we staying, yeah, we staying. Yeah, we staying. We staying. Yeah, we staying, yeah, we staying. Yeah, we staying. We staying up. Yeah, we staying, yeah, we staying. Yeah, we staying. We staying. Yeah, we staying, yeah, we staying. Yeah, we staying. We staying. Say that it's time that you need. So find comfort in spaces between. Yeah, we blessed, but we stress to succeed. We work through the night and say it's just life. Fight and focus our mind. Head of the curve, we ain't towing no line. We don't sleep till we eat, that's a grind. And we drink till we even, yeah, we staying up. We staying up. Yeah, we staying up. Yeah, we drink till we even and we stayin'. We don't sleep until we eat. We stayin' up. Yeah, we stayin', yeah, we stayin'. Yeah, we stayin'. We stayin' up. Yeah, we stayin', yeah, we stayin'. Yeah, we stayin'. We stayin' up. Yeah, we stayin', yeah, we stayin'. Yeah, we stayin'. We stayin' up. Yeah, we stayin', yeah, we stayin'. Yeah, we stayin'. Yeah, we stayin'. We'll be right back. ascoltato adesso il brano di Bronze Whale, non come diceva Fabio, che non lo vedo in giro. E sono dietro di te. Ok, ok. Lui è un artista che produce dal 2011, fa questa musica un po' elettronica, un po' chill out. Dai, ci sta, nella giornata di oggi. È abbastanza, non lo so, una giornata un po' strana oggi, un po' particolare. È post Natale, quindi stai ancora digerendo il panettone, il Pandoro. Va bene, va bene, va bene. E tu hai trovato intanto sempre qualcosa di interessante girando? Ma prima stavo guardando un bel veliero in bottiglia. Ah, un veliero. Lo vedo già bene sulla sala del mobile. Ma macchine, modelli di macchinine non ce ne sono? Sì, guarda, lì all'angolo ho visto una Dodge della Buburago. Ecco, perché il brano che ascoltiamo dopo, vedi che io mi aggancio sempre su queste cose, si chiama Mustang Melody e quindi bisogna vedere se troviamo qualcosa della Mustang, giusto? Yes. Andiamo ad ascoltarcelo. Fucking way. Stupid fucking one. Stupid fucking one. sto vedendo la mia amica qui che ha trovato tre baldi giovani. Sì, sono qui in compagnia con tre ragazzi. Ciao ragazzi. Uno scappa già. Uno scappa, adesso lo recupero. Come ti chiami? Luca. Tu? Angelo. Mattia. Ciao, volevo chiedere, voi siete, vi ho beccati appena stavate entrando, state cercando qualcosa in particolare? No. Qualche regalo, qualcosa da tenere per te, un giro così? No, niente in particolare. Niente di particolare. Siamo venuti a curiosare in generale. Fatto bene. Sì, anch'io sono con loro ovviamente. Lui è quello che guida, che mette la benza, come al solito, no? E gli altri sono quelli che saltano su in macchina. No, io di solito ero quello con la benza, no? Usciva, sicuro. Metteva la macchina poi. Vero, vero. Va bene, allora vi lasciamo curiosare e noi comunque, mettiamo ragazzi, un altro... c'è un bellissimo nano da giardino, io ve lo dico, eh. C'era anche, cos'è che avevi visto di là? Ah, c'è un vino del 73. Ecco, un vino, vi interessa, voi che siete giovani... L'accento. No, va no, dietro no. Di là. Guarda che così hai effetti per due giorni. Immaginavo. Va bene, grazie mille. Ci vediamo nel mercatino. Il prossimo brano? Quindi torniamo alla musica. No, di tu, dai, vabbè, lo faccio io. L'esperto in inglese chi è qua? È per quello, il problema è quello, non è tanto dire annunciare i brani, il problema è annunciare proprio l'inglese. DCM Tunnel. Ok, giusto, prova. We'll be right back. rieccoci. Tony, hai trovato qualcosa in giro? Troppa roba, ma veramente tanta. Se volete venire qua, c'è l'imbarazzo della scelta, dunque non è che dici una cosa, vieni qua magari con zero idee, vai via a casa con 10 pacchettini di regalo. E una cosa in particolare che ti piacerebbe trovare? Magari c'è anche un reparto musicale che è interessante, dopo si ferma il giro. Poi ci sono i vinili, che è la passione per tutti i DJ e non solo, che CD e anche strumenti per sentire la musica, ecco. Infatti ho visto un po' di persone che si avvicinavano al lettore di vinili, che è molto sia vintage che moderno, perché i vinili stanno tornando. E anche mixer ci sono, visto. Io sinceramente ho visto una cosa che con la musica non c'entra molto, la foto dei Maneskin, è una mia posizione musicale. A proposito di musica, adesso siamo arrivati alla missione di questo programma di oggi, cioè oltre siamo a siamo arrivati fare... alle battute finali. No, oltre che a fare questa gita fuori porta, no, col programma, dobbiamo dare la nostra classifica. Allo scopo del programma. Perché quest'anno abbiamo sentito tante etichette, tante netlam, no? Dov'è il mio amico Tony, che lui è sempre più preparato di me nel campo musicale? Io sono un rocker. Scappa Tony, scappa. No, Tony sta già acquistando qualcosa. Tony, la carta di credito addebita il mese prossimo, stai attento con le spese. Ma che c'è stato Natale, ci sarà. Allora, adesso alla numero 10 chi abbiamo? Brainstorm Lab. Allora, alla numero 10 di quest'anno abbiamo Brainstorm Lab. Thank you. e ritorniamo in onda. Ascolta, ma io avevo una domanda un po' per tutte le persone che sono qua, perché da estremo ignorante mi chiedo, ma che cos'è? Secondo voi che cos'è la zangola? Perché io la sto vedendo qua, ma non capisco che cosa possa servire. Allora io farei questo sondaggio, però invece di farlo su Facebook, piuttosto che lo facciamo dal vivo, no? Ok, chi viene qua e ci dice cos'è la zangola o zangola? Secondo te dove che cosa può essere? Una borraccia, no? Ma mi sembra un po' gigante, c'è anche una manovella dietro. No, secondo me no, adesso è qualcosa che trita, che fa, che disfa. Ragazzi, attenzione, senti che voce dolce che arriva. Ragazzi, ho trovato un ragazzo che stava cercando qualcosa nel reparto musicale. Cosa stavi cercando? In realtà sto guardando DVD, CD, vinili, reparto elettronica. Ah, quindi potrebbe essere un musicista al nostro programma, no. Anche noi facciamo musica elettronica. No, sono solo un appassionato di robe di elettronica e basta. Ok. Cosa ti piacerebbe trovare all'interno del mercatino? Ma qualche film che non ho. CD, vinili. Anche. Più che altro però film mi oriento sempre. Film preferito? Film preferito, chiedono? Film d'azione. Ma sei più sul classico tipo Rambo, Rocky, Arnold Schwarzenegger o roba più giovane? No, anche roba vintage, retro. È da uomo nella montagna che si cuce la ferita. La gente lì. Va bene, grazie mille. Grazie. Alla prossima, buon giretto. Grazie. Beh, diciamo che il posto è giusto se vuole vedere del vintage, no? Quindi qua sicuramente qualcosa cercando bene potrebbe trovare. Comunque adesso siamo arrivati ancora alla nostra musica, giusto? E quindi ecco. Cosa stiamo andando ad ascoltarci? Ah, sempre la nostra buona classifica. Allora, quest'anno si piazza la nona posizione su Bass. Vedi? L'inglese l'ho imparato oramai. Ah, anche il titolo, no? Questo è difficile, dai. Subzwara, Smoke Rhythm. Bentornati, siamo ancora qui al mercatino di Gallarate. Io mi sono un po' scusate, mi sono confuso. Volevo dire, per un momento non c'ero nel programma perché facevo un po' di social, però guardavo anche tutti i vari gli oggetti che ancora ci sono in giro e devo dire che il mercatino è veramente bello pieno di belle cose e anche bello grande con tante scelte. Beh, se ci stai te, guarda, vuol dire che è grandissimo sto posto. Devo dire che regge un certo peso. È a spazio l'uomo, ecco. Dove ti porterà questa tua ricerca negli oggetti? Ma sicuramente in qualcosa di oggettistica di casa, che ce l'ho abbastanza vuoto ultimamente. Te sei minimalista. Bravo. Diciamo che chi vuole, lui ospita qualsiasi tipo di persona, animale, oggetto, perché così riempie la casa sua, c'è un'atmosfera che anche se il Natale è passato, però lui è sempre così caloroso con tutti, giusto? Giustissimo. A proposito di Natale, io sono ancora sazio. È vero? Sì, ultimamente c'è questa sedia che ce l'ha su con me. Ma no, è in vendita. Questa sedia è in vendita a 27 euro. Sgabelli in alluminio, signori. A 27 euro. Signor. Chi offre di più? 27,80. 80 centesimi ce l'aggiungo io, dai. E io i 27, grazie. Ok. È vero che è arrivata la tredicesima, però ho capito che io ormai la tredicesima per tanti è già andata via. Per chi gli è rimasto qualcosa, potrebbe venire qua a spendere gli ultimi soldini per fare piccoli, certo, regali e... Certo. Ma anche perché... Qualche piccolo pensiero a qualcuno che magari ci siamo dimenticati, ma non per cattiveria, ma per tempistiche, no? I cugini di secondo grado, lo zio. Ma che te sei meridionale, io sono meridionale. No, io sono metà e metà, io sono oriundo, come si metà dice. Metà metà, ok. C'ho papà che deriva da Udino e la mamma invece da Cerbero. Abbiamo qui una vecchia zangola ancora. E ancora oggi nessuno ci ha detto cosa può servire una zangola. Mi sembra una parola calabrese, però. Vecchia zangola. Sembra un macinino per, non so, qualche cosa, magari il vino. Secondo me anche a me potrebbe servire per qualche fase del vino. Oppure, magari diciamo, sai quelle persone che magari ti si stanno un po' sulle balle? Cavolo, ecco, ma me la zangola. Tu ti siedi sopra e te li macini, così. Certo. Vabbè, poi mettiamo la foto su Instagram, sul nostro, anche sui vari social, e chi ci darà la risposta e la paghiamo noi, tanto costa appena 150 euro, cosa volete che sia? No, dove? No. Vi ricordo che è arrivata la tredicesima. E la tredicesima è andata, no, beh, comunque è anche un bel oggetto per chi ha un ambiente rustico. Comunque, a parte questo Natale, adesso dobbiamo arrivare sempre alla nostra classifica di quest'anno. E siamo alla numero? Siamo alla numero 8, signori. Numero 8. 8. Anche in inglese vuoi? Mia, sei internazionale. È vero che Walt Trips viaggia, però siamo sempre in Lombardia, quindi non è che ci spostiamo. Allora, alla numero 8 abbiamo l'etichetta Omil. Omeac, ecco, infatti vedi, l'ho sentita due giorni fa e mi hanno detto che avevano cambiato ragione sociale. Per questo, che non superiamo la Lombardia. We'll be right back. torniamo sempre a fare i disturbatori della musica. Era bella sta canzone, mi piaceva. Mi ricordi chi sono? Allora, loro sono un gruppo dell'Omeak che hanno fatto anche un brano, una compilation che si chiama The Sound of Republic of Omeak, che non so dove sia dislocata, però un effettivamente paese è un paese, non lo so. No, no, esiste davvero, esiste davvero. Sì, sì, sì. Il brano era di Randy Hobbs con Vag, una cosa del genere. Una roba vaga. Una roba vaga. Vabbè, vaga, però era carina, dai. Sì, sì, sentivo molto... le gambettine che si muovevano, che molleggiavano. Sì, mi sembrava di sentire un pezzo alla Jamiroquai. Sì, anche io. Poi i passetti. Però i primi CD di Jamiroquai. Certo, adesso è un po' più appesantito il ragazzo. Perché è passato il Natale, ha mangiato la caponata. Ecco, non ci sta più, credo, nelle sue Ferrari. Sì, lui è un amante delle macchine, dovrebbe avere tipo un autosalone a casa, ma di macchine costose. Magari adesso che non ci entra più, potrebbe venire qua a rivenderle. Ecco. No, le vende a me, perché magari prendo un po' meno di lui. Ah beh, te magari ci stai ancora dentro. Ma di poco, se tengo la portiera, se meno 5 porte, perché già col 3 ho difficoltà. Vabbè, poi magari nella tua casa non ci stai. Eh no, in 60 metri quadri no, o vado in bagno o vado in sala. Va bene. Comunque, tornando alla musica, perché quando siamo qua ad ascoltare, a fare un po' di musica. Non solo a disturbare la gente. No, no, ecco. Non siamo solo qua a disturbare la gente. Tanto, ragazzi, alle 6:15 noi ce ne andiamo, quindi. alle 6:15 qua ci sarà il pienone, sicuramente. No, invitiamo la gente a venire sempre qua al mercatino di Gallarate, che si trova in via San Pietro. Via Pietro da Gallarate. Ma lui si crede un papa e santifica chiunque. Quindi San Fabio e Sant'Onico oggi. Vabbè, Fabio. Oggi che santo è? Se il 27. Eccolo qua, facciamo un altro sondaggio. Abbiamo due sondaggi oggi. Andremo in giro in cerca di qualche almanacco, magari certo. Si trova. Allora, i sondaggi di oggi sono: che cos'è la vecchia Zangola? Poi cercherò di postare la foto, perché e io con i social ancora non è una sono domanda molto. Un po' più semplice: che santo è oggi? Dipende da quello come ti svegli il mattino, ecco. Dici? Sì, perché se becchi dentro qualche cosa, sai che il santo. Eccolo che è arrivato l'intervento tutti. Da casa. Oggi è San Giovanni. A posto. Allora facciamo gli auguri a tutti Giovanni. Ok, auguri. Ciao Giovanni. Pagate da bere, mi raccomando. No, vieni qua e ci dici cos'è la Zangola. Lo voglio sapere prima di stasera. Comunque, siamo arrivati alla numero 7. Number 6. Che mi dicono che è un'etichetta messicana. Come la messicana? Yes, cioè dalla regia ci dicono che è messicana. Infatti l'ha presentata con i burritos. Però il nome è molto italiano. Dici? È spagnolo. E beh, in Messico non pensano che parlano turco. Ma aspetta, io ho un dubbio su qual è l'etichetta. Ah, ma okay. Che sei Wall Street, non sei con 7. Mike Buongiorno. Io ho detto Six. Ho sbagliato io. Va bene, allora annuncio l'etichetta. Alla numero 7. La Monophonics. We'll be right back. me. Wall Street, un viaggio alla ricerca della musica del futuro. Wall Street, Wall Street, Wall Street, Wall Street, Wall Street, Wall Street, Wall Street, Wall Street. Bentornati, siamo ancora qui al mercatino di Gallarate. Stanno giocando al Celai. Partito. Adesso stanno rientrando anche i nostri colleghi. Ma che sì, lascia fatto la pausina, caffè, sigaretta. Sì. Abbiamo ascoltato un pezzo di Adamson. Okay. Giustissimo, Buzzword. Buzzword. L'etichetta è la numero 6. Che ho già giusto, annunciato giusto. Io per sbaglio. Sì. Però è la Digital Diamonds. Digital Diamonds. Etichetta veramente potentissima, effettivamente. Fa produzioni di questo tipo, tecno, elettronica, preziosa. Molto particolare. Sì. Digital Diamonds, più preziosa okay. di così. Infatti. Siamo tornati in formazione completa. Sì, ma Fabio... fa freddo fuori? Ma un pochino, dai, è sempre inverno, non si può lamentare. Basta che ti quati un po'. Si fuma. Scusate la cazzata. Vabbè, abbiamo scaldato un po' alzato un po' il beat, scaldato un po' la musica. Adesso invece andiamo un po' a rallentare. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano che è di Teppana, Tripol, giusto? Sì, la conosco bene questo pezzo perché diciamo è una cosa che dovrei fare in futuro. Sì. Speriamo. E l'etichetta? E l'etichetta alla posizione numero 5 è la Phono Cake. Quindi cioè, direi che ce la possiamo andare ad ascoltare e poi dopo vediamo. E gustare. E andiamo a sentirla. Thank you. sempre rientrati, orario quasi aperitivo, diciamo, e anche questa canzone, direi che è anche la mia preferita. Sì, ti vedo un po' emozionato. Eh sì, perché vabbè, in futuro nel programma potrai sentirla di nuovo, sotto un'altra forma. Okay. Pensavo che eri emozionato per i regali di Natale. Cosa hai ricevuto da Babbo Natale? Allora, ho ricevuto un libro di musica che il nostro Domenico mi ha regalato. È una traccia più o meno la storia del rock attraverso, diciamo, come schematicamente, no? Tipo James Brown viene collegato all'hip hop, perché l'hip hop è nato soprattutto sulle basi di James Brown. Certo. E così. Poi ho ricevuto un porta matite a forma di chitarra, grazie all'altro mio amico Fabio, e due chiavette USB con la forma di un DJ. Sì, sì, molto simpatica la cosa. Dai, è stato bravo Babbo Natale. Ma hai fatto la letterina o no? Fax. Fax. No, io quest'anno Babbo Natale me lo sono fatto da solo. In che senso? Ho anche speso un po'. Ho preso un televisore grande. No, pensavo che... Perché quando guardi la partita dell'Inter hai bisogno... Lasciamo stare certe cose, perché siamo in un momento un po' triste. Invece la nostra Cristina che cosa ha ricevuto sotto l'albero di Natale? Tante cose. Tipo? Allora, gli orecchini... Poi, sì, da lui. Poi un diffusore di aromaterapia. Fantastico. Quindi ti senti già più rilassata. Sì, sì. Infatti metto sempre relax, 200 gocce, via. Al primo dell'anno è finito, sappilo. Sicuro, devo ricomprarlo. Poi le lenzuola per il letto. Fantastiche, che le cercavo da tempo. Poi. Ma te ne ha portati cose. Babbo Natale. Infatti, devo essere stata brava quest'anno. Ma scusa, invece il nostro Domenico non gli ha portato niente. Chiediamoglielo. Noi sentiamo. Sì, no, ero un attimo preso. Allora, io ho ricevuto un libro da Tony, che poteva essere lo stesso che gli ho regalato io, praticamente. Ve lo siete scambiato, siete andati insieme a comprarlo, ve lo siete scambiato. No, poi purtroppo non ho regali da riciclare. Sai che oggi c'è la giornata del mega riciclo qui al mercatino. Però devo dire la verità, sono rimasto soddisfatto dei miei regali, quindi non ho nulla da recriminare. Diciamo che allora quest'anno Babbo Natale è stato bravo, è no? Stato bravo, questo è stato clima bravo. Natalizio, questa gioia che c'è nell'aria, queste lucine. Cosa? E l'altro invece, Fabio invece cosa ha ricevuto? Oddio, sono un po' preso adesso. Ok, niente, basta. prima che salta tutto. No, perché il nostro tecnico oggi sta facendo i straordinari, diciamo, quindi lasciamolo tranquillo. Meglio così. Però l'abbiamo scelto bene, dai. Sì, sì, oggi sì, oggi vedi sì. Vedi come si sente. Noi lo sapevamo. Non so che cos'è. No, purtroppo no. Sentiamo che cos'è, signora. Troppo presto. Eh sì, mi arrivo, sa un po' di sì, signora. Mi sa che sono andato un po' tardi. Ci può spiegare lei allora cos'è la zangola? Una volta l'usavano. È un coso di legno tipo. Tipo un portaombrello. Sì. Con dentro un manico di legno. Si metteva dentro il latte. Puro e non scremato. E poi con quel bastone lì si cominciava avanti e indietro e veniva fuori il burro. Ah! Dopo 2 o 3 ore anche di più. Sì? Ma non c'aveva niente da fare, si mettevano le nonne sedute così, con sto coso in mezzo alle gambe, oppure metteva lì il nipote quando avevano il braccio stanco. E siccome io l'ho fatto, ho detto, non sa che cos'è la zangola. Infatti, non lo sapevamo. Quindi si stava per 2 ore... Si sta per 3 ore, 4 ore. Duriva e diventava burro. Però andava fuori che era tutto slegato. Poi lo compattavano, lo mettevano nelle formine, li facevano la stampina su con la mucca, quel che era. Facevano dei panetti così di burro. Ah, grazie. Lo usava in casa, non le facevano stampino, ma in genere lo facevano perché lo vendevano. Ah, ok. Chissà che braccia che avevano. Immagino. Mi metteva là e mi diceva va avanti un po' perché mi sostraca. Grazie signora. Venga a vedere la zangola. Venga. Come abbiamo visto, con tutta la tecnologia che c'è nel mondo, la risposta è venuta nella classica più forma vocale, soprattutto di una testimonianza che ci dice veramente che cos'è questa zangola. Allora, è un la signora ci dice che non è una è fasulla. Allora, cosa potrebbe essere? Ah, non lo so, non siamo delle... Vecchia zangola. No, non è una zangola. Attenzione, l'oggetto è ancora più misterioso. Ma non so se era per dividere il grano, il frumento, la cosa dalla crusca. Ah, ho capito. Ma che ignoranza che regna sulla... Non lo so. Io ho fatto grazie, il cepu. Signora. Io ho fatto il cepu, signora. Signora, come si chiama? Anna, senta una cosa, la zangola è come se fosse un portombrelli, però tutto in legno, perché è fatto in legno, con tutte le traverse come una botte, ma stretta in alto, e poi ha anche un bordo che restringe ancora di più, in modo che non entrava l'aria, è leggermente più largo in basso, legata con tutte queste cose per tenerla vicina, perché certo. Era fatta con i legni. Certo, certo. E quindi versavano dentro il latte e poi e veniva fuori il burro. Sì, dopo 3-4 ore. Ciumbia. Sì. Aspetta. Va bene, abbiamo scoperto. Grazie, signora. Questa non è la zangola. Ma che ignoranza. Va bene, adesso abbiamo imparato anche una cosa nuova, quindi lo metteremo poi anche sul nostro social, che cos'è la zangola, e ringraziamo la signora Anna. Allora, mentre nella nostra classifica siamo arrivati alla numero 5. No, che 5? 4. Stai dando proprio i numeri, stai dando. Ma no, perché ho fatto la figura dell'ignorante, adesso mi sento un po' imbarazzato. Eravamo io del Piero e l'uccellino a scuola. Sembra che stai facendo la schedina. Allora, alla numero 4 ascoltiamo l'etichetta Brooke. Dai, la nostra famosissima e bellissima etichetta Brooke. Andiamo che a mi piace molto. Sì, infatti, andiamo a ascoltarla. Flew here, the back, and there. yester years. Some are touching, some are fair, and some are cold. Torniamo in onda. Allora, volevamo ringraziare il proprietario Angelo. Proprietario. Allora, intanto grazie a voi, benvenuti. Grazie. La diretta di Radio Loop è sempre una cosa, diciamo, bellissima, diversa e penso anche coinvolgente. Oggi è venuta, diciamo, un po' così, diciamo, per caso, però secondo me sta venendo bene, insomma. Sì, è simpatica, come dico io. È simpatica, dai, simpatica. Poi la musica è sempre bella, in qualsiasi forma sia fatta è sempre bella. Certo, certo, concordo pienamente. E approfitto. Bravo, allora, e devi approfittare. Approfitto per, diciamo, dire che siamo aperti fino praticamente al 30 e poi, siccome dobbiamo fare un po' di lavoretti dentro, sempre per accontentare il più possibile la nostra clientela, quindi offrire sempre un servizio migliore, eccetera, riapriremo praticamente l'8, ok? Quindi approfitteremo di questi giorni per fare un po' di pulizia, un po' di ordine, un po' di allestimento nuovo e un po' di novità. Per cui chi ci verrà a trovare martedì, magari le cose che trovavi in un posto prima non le trova più, le abbiamo spostate. E cambieranno un po' di cose. Rinnovo la filosofia del mercatino, per cui il mercatino è un po' come se il privato avesse un negozio senza pagarlo. Quindi molti ci dicono: ma perché devo venire al mercatino quando magari posso mettere i miei articoli su Subito? E gli ho detto: è un'opzione, tieni presente che comunque è un lavoro, nel senso che nel momento in cui tu metti un articolo su Subito o su qualche altra piattaforma, chiaramente ti devi dar da fare. E poi non voglio fare il terrorismo, però comunque fai entrare a casa tua magari una persona che magari non conosci. Certo. E che magari è sempre meglio, diciamo, evitare. Il nostro è un servizio, per cui sicuramente quello che tu ricaverai non può essere, diciamo, la stessa cosa che farlo da soli, e come tutti i servizi chiaramente hanno un certo costo. Tenete presente che comunque il vostro oggetto, se è di pregio, poi viene anche spinto, pubblicato su internet e viene gestito, diciamo, in tutto e per tutto e in tutta sicurezza. A proposito, su internet dove vi possiamo trovare? Allora, Facebook? Su Facebook, Instagram, e abbiamo proprio il nostro shop, per cui basta andare nella pagina del mercatino di Gallarate e trovate essenzialmente la vetrina. Si può anche scaricare l'applicazione Riu, che dà la possibilità direttamente da questa applicazione, direttamente dal telefonino, di avere proprio una finestra aperta non solo sul nostro mercatino ma sui 180 mercatini in tutta Italia. Però quindi, okay, poi bisogna solo scrivere quello che stiamo cercando. C'è un filtro e in base alla categoria, alla zona, piuttosto che cerco una categoria, non metto nessuna zona, lui va a pescare nel database di 180 mercatini in tutta Italia. Fantastico, fantastico. Okay. E l'applicazione, tra l'altro, e qui mi riaggancio alla filosofia del riuso, l'ecologia, mm-hmm, eccetera, dà anche una pagina molto bella che è quella del proprio impatto, diciamo, ambientale. Cioè, la persona quando ci porta degli oggetti è un po' come se intanto accumula dei punti, che non fa mai male, che possono essere tradotti in sconti e in buoni, ma quegli stessi punti si traducono poi in punti di benemerenza nei riguardi della persona e dell'ambiente. Ma bisogna avere la tesserina? Bisogna avere la tesserina e bisogna avere questo tipo di applicazione scaricata sul telefono. Man mano che la persona compra e vende oggetti, la sua pagella migliora e fa vedere quella persona come ha contribuito, no, a non immettere CO2 nell'atmosfera, ed è una cosa molto bella. Fantastico. Questo è uno studio che è durato 4 anni ed è stato certificato e protocollato dal CNR, quindi è una cosa molto seria. Ce l'abbiamo solo noi. Però, complimenti, sì, molto bella questa idea, mi quindi piace. Molto spesso, diciamo, la Mercatino, insomma, vabbè, Cagnara, Casino, eccetera, eccetera, però dietro c'è tanto. Tanto. C'è tutto un lavoro dietro che... C'è tutto un lavoro, uno studio, gente che veramente si impegna e investe anche tanto. Questo sì, complimenti per tutto quello che fate. Beh, diciamo che se siamo qua, vabbè, intanto grazie anche a voi che ci spoilerate alla grande. Ma grazie anche a tutte le persone che ormai hanno imparato a conoscerci, parliamo di più di 15.000 tesserati ormai. Caspita. Siamo 10 anni ormai presenti qui e chiaramente se siamo qua dobbiamo dire grazie anche a loro, insomma. Sì. Ok, e al passaparola. What I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. Sotto queste note, allora io volevo soffermarmi su un punto perché è molto interessante, poi l'impatto ambientale mi sta molto a cuore, no? Volevo approfondire quell'argomento di cui parlavi, che il mercatino è impegnato nell'ecologia, mettiamola così, tramite anche l'applicazione, tutto il fattore di punti. Volevo approfondire questo argomento. Sì, allora intanto vabbè, mi fa piacere che ho detto due parole e qualcuno ha alzato le orecchie, quindi si vede che l'argomento è, diciamo, di interesse. Allora, perché la Mercatino ha fatto questa cosa? Perché ha capito una cosa molto importante, ha capito la grossa differenza che c'è fra riciclo e riuso. Il riciclo, diciamo, è il recupero della materia prima, che è una parte dell'oggetto. In realtà l'oggetto ha molto di più, ha la materia prima, il design, il concetto e il lavoro dell'uomo che è stato necessario per rendere possibile, produrre quel tal oggetto. Con il riuso noi andiamo a recuperare il 100% dell'oggetto, dandogli magari una seconda, una terza, una quarta vita. Questa cosa qui recentemente è stata recepita come l'ultimo fenomeno economico di importanza mondiale, la cosiddetta circular economy. Con la circular economy si attiva una seconda economia che in realtà non esisterebbe. Se noi buttassimo tutti gli oggetti e non li rimettessimo nel circuito, è un'economia che andrebbe persa. Invece, rimettendo gli oggetti nel circuito, prima di tutto facciamo una bella cosa. Secondariamente diamo una mano anche a molte persone che magari contano anche su un'entrata secondaria. Noi abbiamo magari anche persone che sono in pensione, che per hobby magari recuperano degli oggetti, certo, che ce li portano anche qui. E magari con il ricavato possono arrotondare la pensione che prendono. Lo studio ha dimostrato che tutto quello che viene, diciamo, guadagnato, diciamo, tramite la vendita degli oggetti viene speso mediamente nel raggio di 20-30 km. Quindi rimetti nella piccola economia. Esattamente. Della liquidità che poi, nel senso, si compra, esattamente, si vende, piccolo motorino della città. Bravissimo. Quindi ecco perché la Mercatino dice, insomma, cominciate a rompere le scatole alle pubbliche amministrazioni, perché voi fate parte veramente integrante di un meccanismo che, se opportunamente alimentato, potrebbe generare una cosa molto ma molto bella. Ok? Non è un caso che in molte città sono anche partiti dei progetti con le scuole, no? Dove c'è questo personaggio che si chiama Ryu, che è un personaggio che ogni tanto viene fuori da quel monitor che vediamo là sopra col mantello, che è il supereroe del riuso. Ah. Ok? Che spiega esattamente le stesse cose che ho detto poco fa, e quindi questo è stato fatto anche grazie a un fumetto che poi è stato presentato nelle scuole che hanno accettato di fare questa cosa, e per cui la Mercatino si è anche impegnata su questa cosa qui, addirittura ha prodotto anche un film che è La Fabbrica Fantasma. Ah. Film che è stato premiato con medaglia d'oro del Presidente della Repubblica, che tratta della tematica della contraffazione. E dove possiamo vederlo questo film? Questo film è stato, diciamo, trasmesso dalla Rai e si può anche comprare perché c'è un DVD. Ah. Quindi ma anche su Amazon mi pare che c'è ancora in giro qualche copia, si può. Quindi potremmo andarlo a vedere. Il regista è Mimmo Callopresti, che si è prestato a questa iniziativa e ha fatto questo film che, partendo da una banale Barbie, ha spiegato che cosa c'è dietro la Barbie, quindi lo sfruttamento del lavoro minorile, la plastica piuttosto che il marchio, e da lì chiaramente è sfociato poi in quello che noi facciamo, perché anche noi abbiamo l'usato firmato, no? Sì. Che è anche lì un altro brand molto molto interessante. Tornando al discorso ecologico, e chiudiamo, diciamo, brevemente, se no magari con il rischio di annoiare. No, sicuramente no. E cosa hanno fatto praticamente questi pazzi della Mercatino? Sono riusciti a tradurre un'idea in numeri, cosa che ha permesso di protocollare un metodo che è stato praticamente certificato, per cui tot prodotti portati alla Mercatino e comprati alla Mercatino ti danno una sorta di punteggio che può essere, in una sperimentazione definitiva, tradotta in uno sconto della Tari. Quindi tu, anziché andare a pagare la Tari al 100%, la potresti pagare meno, perché tu hai contribuito a non immettere quegli oggetti, diciamo, a non portare quegli oggetti nelle discariche, quindi smaltiti. Bravissimo. E quindi è tutto, sia un mancato costo e quindi è un guadagno. Esattamente, per cui i comuni che magari sono, diciamo, full da un punto di vista delle piattaforme eccetera, se incentivassero il riuso,

Salve signora, salve, come signora. Si chiama? Lucia. Ah, piacere Fabio. Buon anno e buon Natale signora. Si sta divertendo, sta guardando tra... Cosa sta guardando? Un po' di tutto. Le piacerebbe trovare qualcosa nel mercatino? Sì, sì. Cosa? Non so. Così, un giretto così. Va bene. Bello, si compra. Ah beh, sicuro, sicuro. Interessa che... grazie signora, buone feste. Quindi stavamo dicendo tornando... Io mi sono preso una microfonata. Quando arriva la mia collega Cristina e picchia in testa Fabio dicendogli: oh, ti devi svegliare, parli o no? Allora, ma perché... Fabio, porca miseria, non mi sei concentrato come io mai? Sono come un diesel, se vado a tratti. Ma sta andando da tre ore, cazzo ci picchia ad accenderti, porca miseria. No, ma prima gli ho dato il microfono in mano perché pensavo dovesse dire qualcosa. L'ha spento il microfono. L'ho spento. E invece stavolta gliel'ha dato in testa, perché ha capito che è molto più funzionale tirarglielo in testa anziché darglielo in mano. Tra dieci minuti non so dove vuole metterlo, quindi ho paura. Guarda che occhio, sempre più in basso, fratello mio. Occhio. Come sta andando quella diretta, Dome? Tu è che mi sei non microfonato, ma adesso ti microfoniamo. No, è andata bene. Poi ti ripeto, sono soddisfatto perché dalla nostra applicazione della radio ci possono ascoltare molto bene. Ma guarda, quindi sono molto oltre che trovarci molto bene, devo dire un'altra cosa, che probabilmente da quest'anno, quindi dal 2019, partirà un programma nuovo che si chiamerà... Il nostro programma. Il ecco. Nostro programma, proprio... Wolf... Che sì, è proprio un'unione tra il... la... Wolf Trips e il VIQ, volevo dirla con la doppia voce, okay, capito? Okay, cioè, okay. È una roba che deve spaccare, avete capito? Va bene, ma va di bene. Cosa si parlerà in quel programma lì? Boh. Di niente, facciamo praticamente un'ora in silenzio, sarà un'ora di buco, capito? Questa sarebbe la cosa più... Cose a caso, e poi ci si terrà tantissime volte il microfono in testa, sì, questa giusto, sarebbe giusto, la cosa giusto, più figa giusto, che giusto. Si può perché fare. Perché ci portiamo i microfoni questi senza fili anche in radio noi. Certo, ma è proprio lì, allora ci saranno i lanci di microfono e anche delle aste, probabilmente, che andranno a finire tutte quante nel... di no. Fabio. Guarda, e allora Fabio vieni qua, non te lo do in testa il microfono. Ah, ok. È l'asta. Sta provando il microfono se ci passa. Sta provando delle misure. È un po' come gli anelli. Sai che gli anelli... No, quelli non li ho mai provati. No. Mi fido, guarda roba, Clarence. No, stavo dicendo una roba seria. Gli anelli, no? Quando uno regala l'anello alla donna, hanno una misura. Certo. Penso, anche i microfoni hanno quella funzione lì. Quindi devi cercare il microfono adatto per te, capito? Diciamo che questo qua mi fa paura. Buona. Oh, passato bene invece te il Natale? Quanto sì, passato bello. Benissimo. Sei sempre... Bello, ma io ti faccio sempre i complimenti di più, cioè, grazie. Lo sai che io ti voglio bene nella prima volta che ti ho ascoltato. È vero, sei stato uno dei primi. Io sono stato il suo scout, direi. È vero, sei stato uno dei primi, uno sì, dei primi. Sì, no, che... io e lui mi ha emozionato già dal primo ascolto. Che bello, ragazzi. Ma dobbiamo andare avanti con la musica, Dome? Cosa facciamo? Sì. Lanciamo il dobbiamo disco. Dobbiamo lanciare il microfono. Allora, il microfono l'abbiamo lanciato, allora lanciamo la prossima canzone. Allora, sono rimasto così importante che sono in giro con due microfoni. Cioè, adesso io non so, cosa volete questo? Vuole due, la vuole uno? Allora, siamo arrivati alla fine della classifica. E quindi, quest'anno, alla numero uno, abbiamo l'etichetta A Quiet Bump. Ma pure per quello. Là, troppo esosi, ragazzi. Allora, ci andiamo a ascoltare Voodoo a Boombaz. Are you ready? This is food. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. People, are you ready? This is food. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. Giro lentamente col cucchiaio il calderone. Nero mentre bolle la pozione sul carbone. Magia nera del delay. Papà ponga lo stregone. Sono io la soluzione oppure la fine peggiore. Tra bamboline di TV, tra eco spese cavi di bambù. Tra bassline, poi funghi blu. La giusta dose se no fa boom. Noi suoniamo per gli spiriti laggiù che fanno paura come quando incontri l'uomo nero e ti fa boom. People, are you ready? This is food. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. People, are you ready? This is food. I got the poison, I got the remedy for you. vi aspetto a mezzanotte come l'uomo lupo. Muovo i tuoi passi come nel teatro un buco. Se il nostro possesso è inutile che chiedi aiuto, e con un po' di spaga e ago ti rendiamo muto. Voodoo tape is too late per un tuo rifiuto. Verso nel big break quell'oscuro e sconosciuto, incappiato come un detenuto, ma poi finisce la pozione rite compiuto. Prendo vita dalle ceneri, riemerso dal fango, sotto varie forme e generi, petali e fiori del mare per l'alto rango. Rievo col mambo jumbo, sono io il diretto discendente del potente Papa Shango. Sogno che vengo a prenderti come disse Rambo. Mi trovi all'effigio a Parigi per l'ultimo tango. Sono io il peccato, sono ritornato come Sauron con Saruman addomesticato a modo rango. Vivo, are you ready? This is food. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. Vivo, are you ready? This is food. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. Sono sapi delle misture, fate apposta per le fatture. Ti ritrovi con scottature, stigmatizzo le tue paure. L'altro mondo più profondo delle fognature. Mi circondo di streghe, nonché di macabre creature. Prendo bene le mie misure, per diffusi sostanze impure. Occhi chiusi e poche premure, rappresento le forze oscure. Asli peolo come mele mature. Taglio via teste dal collo con in mano la scure. People, are you ready? This is food. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. People, are you ready? This is voodoo. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. L'ultimo annuncio dell'anno me lo danno a me. E beh, più o meno sì, perché abbiamo finito la classifica. Siamo arrivati a fine anno. Sì, devo stringersi in questo. Cosa devi annunciare? Ah, più dai. Carico! Allora, ragazzi, inizia il nuovo anno! Vi raccomando, adesso sono esagerato. Va bene, siamo qui alle battute finali al mercatino di Gallarate. Ricordiamo che se volete trovare gli oggetti per prossimi regali fino a 6 gennaio, oltre, sì, ma per tutto l'anno, venite qua, c'è gente esperta, non come noi, che siamo 5 cialtroni più uno che è arrivato dopo, che lui abita già qua, e niente, vabbè, poi, come so dire, grazie per chi è venuto oggi a seguirci o anche solamente per guardare gli oggetti che sono esposti, e diciamo, cosa dire? Cristina, aggiungi te qualcosa? Dica. No, niente, volevo ringraziare il mercatino, tutta soprattutto la gente che lavora dietro al mercatino, sì. Che non sembra, ma veramente... Ricordiamo che è una catena di 180 negozi, sì. In franchising in tutta Italia, e bene, abbiamo qui l'esponente principale che Claves. Grazie. Aspetta comunque... che ti passo il microfono. Eccomi. Allora sì, dobbiamo dire a tutti quanti di venire qua al mercatino. Quindi in via Pietro da Gallarate. Pietro da Gallarate a Gallarate. Quindi quando andate alla Malpensa 1 dovete passare anche da questa parte, perché qui trovate le cose migliori. Cioè proprio quello che voi cercate lo trovate solo ed esclusivamente qui. Poi ci sono i miei colleghi che fanno la radio. Che caspita volete di più, ragazzi? Ragazzi, io vi faccio tanti auguri. È stato veramente un piacere intervenire qua con voi, perché è stata una figata. Cioè non me lo aspettavo che voi mi faceste parlare. Tanti auguri. Che bello. Ripasso la linea a chi? A Tony. Allora, a chi sta provando i microfoni in questo momento? Vediamo se questo l'ha già provato. Aspetta. Questo mi manca, ragazzi. Questo nuovo. C'ha anche il codino. Anche un certo peso. Ma anche il codino. E infatti è per questo che è nuovo. Comunque, tagliando la corta, buon anno a tutti quanti. Ringraziamo comunque anche tutti i nostri ascoltatori, certo, che ci hanno supportato e sopportato. Sopportato più che altro. Sopportato che, guarda. Abbiamo avuto un anno dove abbiamo disturbato molto il povero Domenico alla ricerca di canzoni. Ma lui è già disturbato di suo moda. Buon anno a tutti quanti, buone feste e ci vediamo nel 2019 con un nuovo anno di Wolf Trips. Ok, siamo ritornati parte siamo regia, ritornati. Adesso gli do la linea al nostro grande capo, Domenico. Al boss. Ci siamo, dai, ok. Boh, io direi che chiudiamo, perché ormai stiamo cincischiando fin troppo tempo. E niente, va bene, ci sentiamo sicuramente l'anno prossimo, faremo una settimana di pausa, un paio di settimane di pausa. Quindi ci risentiremo, non lo so quando, vabbè, dopo do un occhio al calendario. Da definirsi, però, se andate sui nostri social di Wolf Trips, ma sicuramente metteremo qualche informazione in più. Il nostro tecnico non ci saluta. Il nostro tecnico ci saluta e doveva dire anche qualcosa per i regali. Ma devo dire che quest'anno ho ricevuto tanti regali utili e poi ho ricevuto un paio di bellissime cuffie che ho inaugurato praticamente oggi e niente, basta, tutto qua. Saluto a tutti, è stato bello, brevemente intenso, brevemente molto faticoso, intenso. Soprattutto parla il nome della sua ragazza. È stato un parto gemellare pure oggi. Però dai, bene, diciamo, bene, dai, è andata comunque bene, è stata una bellissima diretta. Vorrei ricordare che chi ha comprato la T del computer di Dome la può riportare qua. Io non so come lui possa lavorare senza la T. La T non era in vendita del computer di Dome, ve lo dico, ragazzi. Deve schiacciare col ditino senza la T. Come fai? Funziona, ma preferirebbe averla. Quindi chiunque abbia comprato la T è pregato di riportarlo. Lo rimborsiamo, vero Dome? Lo rimborsiamo. No, non lo rimborsiamo, la devi riportare e basta. E poi Dome, posso riportare? Portare via il mio computer dopo? No. Bene, bene, salutiamo tutti, ragazzi, siamo arrivati alle battute conclusive. Claro, sei già venduto il tuo computer. Hanno venduto anche il mio computer, buono. Sì. Allora ritirerò qualche soldino anche stasera, dai, buona. Però manca la copertura, quindi se vuoi vendiamo anche quella. Salutiamo tutti, ragazzi, è stato un piacere stare con voi, è stato bellissimo. Dobbiamo salutare adesso, sigla! Ciao!